Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e bentrovati da Deborah Rosciani ad una nuova puntata di Salva Danaio. La visione dei mercati finanziari, la realtà dei mercati finanziari, temi che affrontiamo molto spesso nella nostra trasmissione, e oggi lo riaffrontiamo questi argomenti di nuovo, visto che proprio in queste due modalità, visione e realtà, si divide un libro recente, anzi un vero e proprio piccolo, perché per fortuna non si tratta di un improponibile tomone di finanza, manuale per orientarsi fra le tematiche finanziarie. Il nuovo vademecum dell'investitore lo hanno scritto due consulenti finanziari, Giorgio Arfaras e Antonello Sanna. Il primo è presidente, il secondo è fondatore e amministratore delegato di Solutions Capital Management SIM, una SIM di consulenza indipendente che si avvale di una rete di promotori finanziari. A quattro mani appunto hanno scritto questo volume. Noi oggi ve lo presentiamo insieme a uno dei due autori, Antonello Sanna, che saluto. Buongiorno e bentrovato a Salva Danaio. Ciao Deborah. Allora, la prima curiosità che mi viene, poi noi naturalmente ai nostri ascoltatori faremo sentire anche qualche estratto di questo libro, soprattutto nella parte in cui ci si dedica ai piccoli risparmiatori. Ci interessa anche capire qual è la vostra visione su come orientarsi in questo mare un po' agitato che rappresenta il mercato in questo momento. Ma la prima curiosità, Sanna, che mi viene in mente è, come dire, è la domanda anche d'obbligo che si fa in queste circostanze: come nasce un libro di questo tipo? Perché se io oggi entro in libreria e di vademecum su come investire, su che cos'è un'azione, su che cos'è un'obbligazione, ne trovo davvero tanti. Che cos'è di diverso il vostro volume e come vi è venuta questa idea? Dunque, l'idea sottostante al libro è quella di descrivere il mondo della finanza per come l'abbiamo vissuto dietro le quinte io e Giorgio Arfaras. Lui si occupava di gestione, io mi occupavo di reti, e abbiamo vissuto questo mondo sia vedendolo davanti e per come si presenta, per l'architettura che arriva al cliente, sia per come dietro, quindi la ricerca del profitto, le asimmetrie informative, i problemi che possono poi toccare il singolo cliente quando compra un prodotto finanziario. Tutto sommato, secondo me, non c'è una visione così lontana dalla realtà quando si descrivono le banche come cattive, insomma, ecco. Questa è un po' la sintesi. Questa è una presa d'atto interessante che mi piacerebbe sviluppare nel corso della trasmissione. Detto questo, quindi, poi che cosa vi ha mosso? Ci ha mosso l'idea di fondare questa società, che è assolutamente indipendente, perché poi lo dirò più chiaramente, il modello finale secondo noi che può andare a tutela del risparmiatore è che il distributore sia assolutamente indipendente dalla fabbrica, in maniera tale che faccia una selezione indipendente dalle scelte. Comunque, al di là di questo, per rappresentare la realtà, era Natale, abbiamo detto: al posto di regalare l'agenda, cosa potremmo regalare? Giorgio è uno scrittore straordinario, io ho tutta una serie di dati che avevo analizzato nel tempo per arrivare a costituire questa SIM, le abbiamo fuse in questo pamphlet, che giustamente detto è piccolo perché temevamo altrimenti... Sì, sono poco più di 30 pagine, sì. Per cui effettivamente, insomma, una lettura agile, snella. Sì, ti confesso che io non ho mai letto Il Signore degli Anelli prima del film perché mi aveva spaventato la dimensione del libro, quindi abbiamo cercato di evitare qualsiasi tipo di avversione data dalle dimensioni e rendere tutto sommato una lettura così anche spiritosa in certi passaggi. Intanto, se qualche lettore, qualche ascoltatore fosse interessato a reperire questo volume, come può fare? Vi deve contattare direttamente? Non credo che lo possa trovare in libreria. No, non si trova in libreria, l'abbiamo dato ai clienti e agli amici e abbiamo tirato 5.000 copie, quindi ce n'è anche per chi lo dovesse volere. Si collega al sito scmsim.it e lì fa richiesta del libro tranquillamente. Se gli fosse sfuggito l'indirizzo, lo ricordiamo dopo, può anche scrivere a noi di Salva Danaio, poi lo dirottiamo verso di voi. Intanto, perché abbiamo detto la visione dei mercati finanziari e la realtà dei mercati finanziari, vi siete proprio suddivisi il libro in queste due parti, sì. Ognuno di voi ha sviluppato appunto entrambi gli argomenti. Perché questa suddivisione? Perché la visione di Giorgio è più una visione da economista, quindi tratta più, diciamo, i temi macroeconomici e le relazioni che ci sono fra mercati, tassi, cambi, valute, eccetera, eccetera. Io invece ho voluto descrivere un po' di più la realtà del mercato italiano, la realtà distributiva, che è quella che conosco meglio, con tutte le perversioni che non sono a carico dei distributori, questo deve essere chiaro, ma di un sistema che in qualche modo poi spinge a fare delle scelte che a volte hanno anche a che fare con l'etica. Faccio un esempio: quando si vende un prodotto, tante volte questo prodotto tanto più è remunerativo per l'operatore, tanto meno è valido per il cliente. E questo non è un conflitto di interesse che si supera dicendo è cattivo il distributore. È insito nell'architettura distributiva, quindi va ripensata in qualche maniera. Quindi... Ah, beh, quindi lei avrà anche delle idee chiare, immagino, su questo ripensamento. Abbastanza, abbastanza chiaro. Diciamo allora... che dopo un decennio in cui era difficile trovare rendimenti, abbiamo così visto molti strutturati o comunque strumenti anche difficili da comprendere per gli operatori. Non a caso Michael Douglas nella seconda Wall Street dice c'erano 75 persone al mondo che potevano capire quegli strumenti, ed è vero, appunto, che non tutti hanno colto la crisi dei subprime quando stava arrivando, proprio per la complessità delle architetture. Ecco, dopo 10 anni di questi temi penso che si potrebbe fare profitto tranquillamente come in qualsiasi altra professione, semplicemente dando un'informativa corretta. E invece, a quanto pare, come dire, l'industria finanziaria sta ritornando a qualche eccesso del passato. Questa è una, come dire, situazione che stiamo ritornando a vedere, ce la raccontano molti giornalisti, chissà che anche noi non sbagliamo anche nei racconti, però a quanto pare almeno la finanza americana sta ripensandoci su questi errori, non in termini positivi ma negativi. Ma questo magari lo affronteremo dopo. C'è anche tutto il tema della consulenza che voi affrontate, certo, in questo libro, ne abbiamo estratto una parte, lo sentiremo dopo. Adesso cominciamo a sentire una parte delle vademecum dell'investitore e sentiamo un po' la differenza addirittura fra risparmiatore come essere umano, e voi l'avete paragonato alle abitudini di un cane. Adesso speriamo di non spaventare i nostri ascoltatori, ma è una parte molto interessante, sentiamo. Un cane mette da parte l'osso, ossia risparmia, ma non si ha conoscenza di cani che abbiano inventato il freezer per stipare gli ossi in gran numero e per molto tempo. I cani non smussano la volatilità del loro reddito. Quando hanno molte ossa, non le immagazzinano per poterle mangiare in quantità sufficiente quando capiterà loro di averne poche. Il concetto di reddito permanente è stato concepito dagli umani. Solo i popoli dediti alla caccia e alla pastorizia possono consumare quasi tutto, a patto di potersi muovere continuamente alla ricerca di prede e pascoli ed essere in pochi. Può accadere che conquistino il mondo, come fecero i mongoli. Essi controllavano la metà dei cavalli dell'epoca, ma poi hanno perso, come gli indiani d'America. Vincono i popoli stanziali, che producono un surplus, ossia un prodotto superiore a quanto serve per produrlo la volta successiva, e che è distribuito anche a chi si occupa d'altro, i sacerdoti, i guerrieri e i mercanti. Poi sono arrivati gli uomini di finanza, che sono una combinazione di sacerdoti e di mercanti. La finanza si occupa professionalmente del futuro, perché i prezzi delle azioni e delle obbligazioni sono delle congetture intorno ai percorsi futuri delle cose. Sono state inventate delle tecniche per schiacciare il futuro nel presente. Naturalmente, più si schiaccia il futuro, più si riduce la possibilità sia di guadagnare, sia di perdere. Se riduci l'impatto del futuro, riduci il ventaglio della tua fortuna. Se fai uscire senza velo la tua consorte, rischi che qualcuno si invaghisca di lei. Ma se tutte escono senza il velo, magari incontri la persona che hai sempre cercato e che non potevi riconoscere dietro il velo. In gergo finanziario, il rapporto rischio-opportunità. Beh, certo che le relazioni che fa il suo collega sono davvero interessanti. Il tema della consorte che si fa circolare senza velo, paragonata al mercato finanziario, al rapporto rischio-opportunità. È un bel, come dire, metodo di scrittura anche che utilizza, ma siamo sicuri che questo è un vademecum adatto anche ad un piccolo investitore? Assolutamente sì. Se ci pensate un attimo, le metafore sono tratte dalla vita di tutti i giorni, dal cane al velo, al burka. Nel paragone del burka c'è il rischio, sotto non vedo cosa c'è, ed è tipicamente il rischio che mi prendo con azioni di aziende a bassa capitalizzazione o di piccole aziende, addirittura start-up. Viceversa, quando vedo cosa c'è sotto il burka, e parlo per esempio di titoli che possono essere Eni, certamente quello che vedo io lo vedono anche tutti gli altri. Quindi tanto più le informazioni sono note, tanto meno si corre il rischio, tanto meno si può guadagnare. E questo è semplicemente riportarlo, diciamo, sulla vita quotidiana, per capire che la finanza, al di là dei numeri che poi sono complessi, in realtà i meccanismi che la governano non sono così difficili da comprendere. Esiste un prodotto di investimento, secondo lei, del quale abbiamo tutte le informazioni possibili? Secondo me no. Quando ci sono c'è troppa informazione, per cui alla fine uno desiste dall'approfondire, anche perché non ha tempo, in genere fa altre cose, proprio per questo si rivolge a qualcun altro che faccia prodotti finanziari o distribuisca servizi finanziari, per cui si rinuncia e alla fine si valorizza l'unico asset, almeno nella distribuzione italiana, che è quello che porta tutto il rapporto con il cliente, che è la fiducia, ci si fida, alla fine diciamo una brava persona, mi sembra che ci si possa fidare, e quello è il modo per comprendere fino in fondo. Nel libro, soprattutto nella prima parte, che è quella che è stata curata dal suo collega Giorgio Arfaras, Arfaras, c'è anche l'esempio dell'obbligazione tedesca per dimostrare che il futuro è imprevedibile. Sì. Che cosa vuol dire? Il futuro, allora, in sostanza lui basa tutto su questo assunto, che la finanza è quella scienza che, cercando di interpretare il futuro, tanto meglio lo interpreta, tanto più si ha la possibilità di guadagnare. Se non si ricorda, Ritorno al futuro, che la fortuna di Biff, il nemico del protagonista, è nel trovare un annuario con i risultati delle partite degli anni successivi. Ecco, questo è il sogno di chi fa finanza, è quello di indovinare il futuro. Evidentemente, tanto più uno vuol rimanere trincerato, il Bund tedesco è un esempio, su posizioni sicure e quindi scommette poco sul futuro, tanto meno ha possibilità di guadagnare. Eccoci ritrovati insieme, oggi vi presentiamo il Vademecum dell'investitore, scritto da due consulenti finanziari, uno dei due è con noi oggi, Antonello Sanna, fondatore e amministratore delegato di Solutions Capital Management SIM, che è una SIM di consulenza indipendente che si avvale di una rete di promotori finanziari. Che cos'è una SIM di consulenza, Sanna? Facciamo anche un po' di così docenti di finanze, non io naturalmente, lo delego a lei molto volentieri questo compito, però per chi non sapesse che cos'è una SIM di consulenza. Allora, diciamo che non mi metto nella posizione del docente, spiego, dico quello che so. Qual è il suo lavoro in sostanza? Ecco. Allora, SIM di consulenza, le SIM sono società di intermediazione immobiliare e fanno parte di quei soggetti cosiddetti vigilati, perché sono sotto la vigilanza di Consob e Banca d'Italia per garantire la tutela dei clienti. Ci sono le banche, le SIM e le SGR come soggetti vigilati. Le SIM sono quelle più deputate alla commercializzazione dei prodotti, alla distribuzione. Ci sono varie lettere d'autorizzazione, con l'avvento della MIFID, quindi questa direttiva europea, la consulenza è ridiventata, perché lo era già in Italia più di 10 anni fa, un'attività soggetta ad autorizzazione, poi per un lungo periodo non lo è stata più, dal 2007 con l'avvento della MIFID è ritornata ad essere un'attività per cui ci vuole un'autorizzazione specifica data da Consob e Banca d'Italia. E noi abbiamo costituito una SIM che fa consulenza. I promotori finanziari non vendono prodotti di casa vostra, ma fanno consulenza su come il risparmiatore gestisce il suo portafoglio, quindi non vende direttamente. Esattamente. In realtà il promotore, diciamo, ha rapporto con il cliente, ma la consulenza è erogata dalla società. Questo fa parte delle regole del gioco, anche giusto, perché nella catena del valore il promotore finanziario in genere è molto abile nel tenere le relazioni, profilare il cliente, capire le necessità, ma l'attività di gestione e di comprensione dei mercati viene fatta da professionisti. Certo. Ecco. No, però tanto per capire, il risparmiatore in questione può avere, per esempio, nel suo portafoglio 20 titoli di Stato e voi potete fargli una consulenza su quello senza avere nessun tipo di interesse a vendere un determinato prodotto, magari di un'altra casa di investimento. Assolutamente, noi percepiamo compensi solo dal cliente, il che ci allontana da qualsiasi forma di preferenza rispetto ai prodotti. Utilizziamo sia fondi, sia titoli, tutti i mercati, gli ETF, insomma qualunque cosa corrisponda al profilo di rischio del cliente può essere soggetta a consulenza. Il vantaggio di una SIM indipendente è proprio la mancanza di legami con fabbriche prodotto, il che ci pone in una posizione di assoluta così neutralità rispetto al prodotto stesso e rispetto al cliente. Che tipo, almeno secondo il vostro osservatorio, di esigenze stanno manifestando in questo momento i risparmiatori? Ancora a grande ricerca di sicurezza, di mantenere proprio molto liquido il proprio portafoglio? Che cosa si cerca? Secondo me c'è un fatto atavico dell'italiano che è un po' avverso al rischio. In questo momento lo è ancora di più a causa del periodo che stiamo vivendo. Effettivamente i mercati non hanno regalato grandi soddisfazioni negli ultimi anni e soprattutto l'ultimo decennio, diciamo dal 2000 in poi, chi è rimasto investito costantemente non ha portato a casa grandi guadagni. Quindi oggi c'è questa ricerca di sicurezza che però la trovo coerente anche con il risparmio, con le finalità, insomma, di quella parte hard del risparmio. Che è andato a caccia di sicurezza negli ultimi tempi, ha puntato molto anche su materie prime che hanno avuto una crescita enorme, una crescita trainata soprattutto dalla forte domanda di grandi economie che stanno continuando a crescere in maniera spaventosa, spaventosamente positiva, come la Cina, l'India e tante altre. L'oro è una di queste. Sentiamo questa pillola sull'oro tratta dal vostro libro. Perché mai l'oro dovrebbe coprire dalle evenienze negative? L'oro è molto più volatile dell'euro o dello yen. Alcune delle altre attività che potrebbero salire di prezzo se il dollaro franasse. Negli ultimi 10 anni, la volatilità giornaliera dell'oro è stata il triplo della volatilità dell'euro e il sestuplo della volatilità dello yen. Si tende perciò a credere che se le cose andassero male, l'oro schizzerebbe in alto con una forza inimmaginabile rispetto ai rifugi alternativi. Se uno pensa che le cose possano andare male e compra oro, gode del vantaggio, assumendo che le relazioni statistiche del passato si ripropongano nel futuro, di poterne comprare un controvalore ben 6 volte inferiore a quanti yen dovrebbe comprare per ottenere lo stesso effetto. Questo non significa che l'oro abbia per sé un valore, perché è più concreto della moneta cartacea, emessa a discrezione della banca centrale. L'oro vale perché qualcun altro eventualmente lo compra, contando un giorno di poterlo vendere. Abbiamo perciò un valore soggettivo. L'oro non produce reddito, come un dividendo, una cedola o un affitto, e dunque il suo prezzo non dipende da altri valori con cui può essere messo in relazione, ma solo dalla percezione di chi scambia. Potremmo dire in gergo che l'oro non ha fondamentali, ossia non ha un prezzo che ha fondamento nel reddito di una fabbrica, nel sistema fiscale di uno Stato, negli immobili. Antonello Sanne, i vostri promotori finanziari si imbattono in molti clienti che cercano questa asset class per investire il proprio denaro, e soprattutto come si comportano di fronte ad una richiesta di questo tipo, perché non è mica facile investire in lingottini piuttosto che... non è difficile, però insomma appare in ogni caso una scelta originale. Dunque, sulla scelta, la fine della Seconda Guerra Mondiale lo testimonia, sono... grandi fortune tutte in oro, perché è spendibile, non ha bisogno di essere cambiato, non risente dei tassi, delle valute, l'oro è oro. Devo dire, non ci capita spesso, perché i clienti che vogliono investire in oro probabilmente scelgono altri canali o vanno a comprare degli ETF, immagino, oggi ce ne sono alcuni il cui sottostante è l'oro. Però secondo me il cliente che cerca l'oro va a comprare direttamente il lingottino, come giustamente diceva, perché lo vede molto più concreto e molto più slegato dal mondo finanziario. Viceversa, i nostri clienti in generale ci chiedono cosa possiamo fare, aiutami a capire qual è il rischio, questi soldi preferisco non perdere piuttosto che guadagnare, quindi ci danno delle direttive precise e poi condividiamo le scelte con loro, in genere tarandoci oggi su cose molto sicure. Lei ritiene che sia sempre in assoluto un bene rifugio? L'oro? Sì. Beh, direi che la storia un po' lo dimostra, no? Ricordo la Svizzera, che proprio alla fine della seconda guerra mondiale aveva una marea di ricchezze difese abilmente, ma erano quasi tutte state portate in oro, perché la moneta si svalutava a una rapidità straordinaria. Allora, a parte le vostre teorie sull'oro, tra pagina 13 e pagina 14 del libro si parla di... Io continuo ancora ad interrogarla su parti del libro che non ha direttamente curato lei, ma sono sicura che le avrà lette molto bene, le conoscerà molto bene. Si parla di narrativa religiosa, narrativa socialista, narrativa liberale e infine di narrativa finanziaria. Qual è il filo conduttore fra tutti questi tipi di narrativa? Io direi che alla fine le metafore che ben rappresentano la finanza le trovo dappertutto, dalla religione... Quando si parla di talenti, la parabola dei talenti, fino alla narrativa socialista, perché in fondo la finanza attraversa trasversalmente qualsiasi tipo di narrativa. Poi ci metta anche che l'autore, che è Giorgio Alfaras, è egiziano ma cresciuto a Milano con un cognome greco, e spiega insomma questa visione. Vabbè, diciamo che lui tra gennaio e adesso avrà, tra la crisi del Nord Africa e la crisi greca adesso, si sarà sentito molto chiamato in causa. La prossima volta portiamo anche lui a Salva Danaio. Volentieri. E quindi insomma mi diceva sul tema delle metafore che avete utilizzato per il libro. Era l'idea di rappresentare con esempi o metafore più lontane possibile dalla finanza, ma più conosciute in vari ambiti, quello che accade in realtà in un mondo che sembra complesso, ma cui i meccanismi, dicevo, alla fine sono semplici, mm-hmm. assomigliano a tanti che già viviamo quotidianamente. Sanna, dedicate tanta parte del vostro libro al tema della casa, dell'immobile, sì. Anche questo è un investimento tra i più gettonati delle famiglie italiane, affezionatissimi al mattone, l'investimento, poi il prezzo della casa cresce naturalmente, in questo momento non è un mercato particolarmente liquido, perché chiaramente gli investitori che hanno cioè. Fatto questo investimento qualche anno fa vogliono, come dire, monetizzare ai livelli che si aspettano. Quale considerazione avete dedicato all'argomento? Beh, l'idea sulla casa è che l'immobile sia un asset class da considerare in maniera nobile quanto le altre. Però in Italia si era data un'enfasi straordinaria, i prezzi erano cresciuti in maniera eccezionale, e l'idea sottostante era: attenzione, non potete scommettere tutto sul mattone, perché in ogni caso in qualche misura arriverà, non dico la crisi, nessuno si aspettava una cosa del genere, ma quantomeno un livellamento dei prezzi. Allora, nel libro abbiamo detto: trattiamola correttamente come un asset class, ma senza sovrappesarla come si fa di solito mm-hmm. in Italia. Qui quando qualcuno dice devo investire in immobili, in realtà non si rende conto, non ha visto bene che i prezzi sono flessi parecchio, e addirittura negli Stati Uniti siamo quasi a un 40% rispetto ai massimi. Insomma, non è poco. Infatti. Senta, a proposito di mercato immobiliare, ovviamente tutte le famiglie che si sono buttate sul mattone negli ultimi anni lo hanno fatto sottoscrivendo dei mutui, soprattutto di nuovo negli ultimi tempi per i bassi tassi di interesse, mutui a tasso variabile. Ci dà la sua visione sui tassi di interesse per i prossimi mesi? Avremo questo rialzo abbastanza probabile? Dunque, rialzo di nuovo all'inizio di luglio, poi? Sì, secondo me però è sulla parte corta, uh-huh. cioè stiamo parlando di tassi fino a 5 anni, perché in realtà dai 5 ai 30 i tassi non sono particolarmente, sono già cresciuti e non sono particolarmente soggetti a spostamenti. Quindi dal mio punto di vista è un problema che tocca soprattutto chi ha mutuo, ma non è così rilevante come si potrebbe pensare. Cioè comunque viene sottenuto abbastanza sotto controllo. E sui mercati finanziari invece, se ci, come dire, orientiamo alla borsa da qui alla fine dell'anno, poi questo tanto per lanciare anche l'ultimo tema che affronteremo nell'ultima parte di Salvadanaio, la sua seconda parte del libro, la realtà dei mercati finanziari. Intanto cominciamo ad anticipare qualcosa. Allora, primo tema, la volatilità. Mm-hmm. Allora, per chi non ama il rischio, secondo me questo semestre è un semestre abbastanza difficile da maneggiare con cura. Assolutamente. Mm-hmm. Abbiamo delle opportunità sui mercati emergenti, ovviamente, però come al solito molto più volatili di quanto non siano stati quelli occidentali. Nel mondo occidentale abbiamo due temi importanti, insomma, che condizionano tutto il ragionamento. Il primo è quello dei debiti pubblici, che credo sia sotto gli occhi di tutti, che siamo stati abituati a spendere di più di quanto potessimo. E l'altro tema è gli Stati Uniti, che comunque restano una locomotiva importante, ma che anche loro in questo momento hanno un grosso problema di debito pubblico. Questo, al di là della bontà delle aziende, prendo le aziende tecnologiche, che comunque, prendiamo Apple, è facile, è un'azienda che con i ricavi va molto bene, continua a produrre nuove idee, adesso l'idea del cloud mm-hmm. estesa a tutti i Mac fa sì che vada piuttosto bene, però poi risente dalla congiuntura complessiva, dalla paura dell'investimento in borsa. Quindi io sui mercati finanziari a un cliente che non sia particolarmente avvezzo al rischio direi in questo momento di trovare delle alternative rispetto alle azioni o di investire in quantità molto contenute. Quindi una diversificazione del portafoglio in questo momento per chi è avverso al rischio, con una proporzione appunto contenuta di mercato azionario. Ultima parte di Salvadanaio quest'oggi, dedicata ad una lettura che stiamo facendo insieme a voi, la lettura del vademecum dell'investitore. Abbiamo uno degli autori con noi questa mattina di questo libro, Antonello Sanna, fondatore e amministratore delegato di Solutions Capital Management SIM, che è una società di consulenza indipendente. Allora, abbiamo parlato un po' di tutte le tematiche che vengono affrontate da questo libro, ma adesso ci interessano, Sanna, le raccomandazioni dirette ai piccoli risparmiatori, no? Per capire un po' come devono comportarsi. Adesso, a prescindere dalla realtà di mercato che si vive, è chiaro che poi c'è una ricetta giusta a seconda della propensione all'investimento e alla propensione al rischio che si ha. Sentiamo qualcuna di queste raccomandazioni che indicate nel vostro libro. Fate attenzione ai rendimenti. Se vi propinano i rendimenti degli anni passati, diffidate. Non ha alcun valore. I contesti cambiano continuamente e non è detto che il rischio che volete correre sia così alto da giustificare rendimenti importanti. non investite mai con dipendenti o promotori di una banca o di una SIM o SGR che fabbrica prodotti. Cercheranno di darvi il prodotto della casa, che spesso non è il migliore. Definite con ragionevole precisione le vostre aspettative e stabilite un periodo di tempo alla fine del quale fare una verifica. Ragionate sul risultato e valutate la bontà della prestazione. Senza obiettivi definiti, è difficile fare valutazioni sensate. Non accettate perdite ingenti del 15 o 20%. Se i mercati crollano, nessuno fa miracoli, ma l'indicazione di vendere vi deve arrivare. E voi vendete subito. Non cedete alla tentazione di tenere per non capitalizzare le perdite. Sono corbellerie. Quando c'è tempesta, si torna in porto. Tornerete a navigare con acque migliori. Quelle di adesso invece sono acque un po' agitate. Allora, attenzione al conflitto di interessi, questo è quello che indicate nelle vostre raccomandazioni: non essere ingordi, quindi quando si è guadagnato un po' non sperare sempre che il guadagno triplichi a dismisura. Beh, in questa serie di raccomandazioni credo che il ruolo della consulenza sia fondamentale, Sanna. Non ho fatto leggere volutamente la parte dedicata proprio al ruolo della consulenza. Quali sono le raccomandazioni che fate su questo? Perché molto spesso le persone ci fanno questa domanda: ma come faccio a scegliere il consulente giusto per me? Dunque, una delle indicazioni che abbiamo dato è quello di scegliere qualcuno che sia indipendente, perché quando vado da un medico, per utilizzare una metafora facile, se fosse pagato da una casa farmaceutica mi preoccuperei che poi mi vada a cercare proprio qualcosa che risponda a quel farmaco. Allora, questa è la prima raccomandazione. La seconda è: i rendimenti fanno leva su una cosa, che è l'avidità. Noi tutti siamo avidi, ovviamente in positivo, cerchiamo di far crescere i nostri denari. Quindi il fatto di mostrare quello che è accaduto qualche anno prima o l'anno precedente per dire questo è un buon prodotto sta facendo leva su una parte emotiva molto importante per noi. Quindi guardiamo avanti, guardiamo le prospettive quali sono e soprattutto per una volta partiamo dal rischio. Se lei guarda le classifiche dei fondi, mettono sempre il rendimento, pochi mettono il rischio. In realtà il primo parametro che dovremmo guardare è quanto rischiamo a mettere i soldi all'interno di questo fondo, in questo strumento. Una volta stabilito il rischio, che significa posso perdere anche il 20%, posso guardare il rendimento e farmi un'idea. Per i risparmiatori dico l'indice di Sharpe è la sintesi, tanto è migliore l'indice di Sharpe, tanto più ho la sintesi di questi due parametri per cui posso regolarmi. E non è una cosa difficile, è semplicemente un indice che troviamo su qualsiasi provider tipo Morningstar. Quindi il consulente dovrebbe partire da lì, capire che cosa vuole il cliente, perché le ripeto, ci sono alcuni clienti che ci chiedono innanzitutto di non perdere perché hanno faticato una vita per quindi il massimo soldi. Protezione e basta. Protezione, oppure ci dicono fra qualche anno io devo fare delle cose. Allora bisogna avvicinarsi a quell'anno, quella data fatidica, costruendo un percorso che piano piano diminuisca il rischio e quindi la volatilità. Da questo comincio a capire se il consulente è un buon consulente, perché guarda me e in funzione di questo sceglie i servizi anziché partire dal servizio dicendomi guarda che cosa ho e facendo leva sull'avidità o sulla paura. Questi sono i due grandi temi con cui si compie. Certo, il tema della consulenza indipendente è molto interessante. Noi adesso abbiamo ancora un paio di minuti prima di chiudere, ma magari qualche indicazione da lei me l'aspetto, perché quando affrontiamo questo argomento a Salvadanaio c'è la percezione fra i nostri ascoltatori che questa consulenza, quella indipendente, sia disponibile solamente per portafogli di una certa importanza, che comunque il piccolo risparmiatore non ha nessun'altra alternativa che andare in banca e naturalmente acquistare quello che lo sportello gli offre. È un problema? No, direi di no. È chiaro che dobbiamo parlare di qualcuno che abbia, di un cliente che abbia dei risparmi, perché ci vuole la materia prima. Però può essere anche un percorso in cui si costruisce risparmiando gradualmente. Si costituisce il famoso patrimonio, il famoso gruzzolo, e quindi si può partire anche da giovani, senza capitali, trovando un consulente che ci aiuti a capire come costruire questo patrimonio. Direi di più che la consulenza indipendente non va vista solo per quanto riguarda il risparmio, ma anche nella scelta del debito, quando si va a scegliere un mutuo, quando si prendono degli impegni. In quel momento il consulente può aiutare il cliente a scegliere più consapevolmente, non dico meglio, più consapevolmente, capendo che cosa c'è sotto quello strumento. C'è un'altra considerazione interessante che lei fa in questa fine del tunnel, che lo ricordo ancora, pagina 34 del Vademecum dell'investitore, questa rosa di raccomandazioni su come comportarsi anche con il proprio denaro. Il bricolage fai da te è molto rischioso ed è una delle attività più antiche degli italiani. Quindi c'è ancora questo scetticismo nel come dire, affidare il proprio risparmio. Si preferisce comunque ancora andare in banca, Sanna? Sì, magari scegliere il BTP trentennale che oscilla in maniera clamorosa, salvo poi scoprire per necessità sopraggiunte di doverlo liquidare 10 anni dopo, rimettendosi qualche punto percentuale. Bricolage, dico, la finanza fino agli anni 90 poteva essere interessante per il singolo che facesse da solo, perché i titoli di Stato coprivano con i loro rendimenti qualsiasi necessità. Oggi è molto complessa anche per gli operatori, quindi è un po' come la medicina, far da soli è molto pericoloso. Sanna, io devo salutarla perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Come lei saprà, ho solamente spulciato il libro, non sono riuscita a leggerlo tutto attentamente. C'è una parte che vuole suggerire in maniera particolare ai nostri ascoltatori di non perdersi? Ma io direi che la parte iniziale, in cui si descrivono i mercati azionari attraverso le candele e le lampadine, così lascio una piccola esca, è una parte molto divertente. Sempre la solita storia delle metafore che ci ha indicato prima, insomma, che piace particolarmente al suo collega Giorgio Arfaras. Esattamente. Questo accento di questo egiziano greco, veramente una figura affascinante, anche la sua, Sanna. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie ad Antonello Sanna, autore del Vademecum dell'investitore. Salvadanaio termina qua. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, a Valeria Bernardi in assistenza tecnica. Ci risentiamo domani. Buona giornata a tutti.